È bellissima questa proposta, ma ditemi, non ce n'è una di più alte, di più sublimi? A noi che abbiamo tante volte offeso il Signore, tante volte siamo strisciati per terra, tante volte ci siamo trovati sull'orlo dell'inferno. Ma proprio a noi, ma ripetiamoli l'obiezione, ma Gesù Cristo, Maestro, ma ti sbagli forse anche tu? Ma tu sai che razza di individuo ti sta davanti? Ma tu sai che razza di peccatore sono io? Sì che lo so, ma so quanto tu mi costi. Mi sei costato sangue. Nella vita di San Domenico di Guzman, spagnolo, fondatore dei padri domenicani, c'è anche questo fatto, semplice e molto significativo. A un certo punto si legge che in un paese viveva una donna di malaffare, incorreggibile. Per quanto i predicatori, i missionari avessero tuonato forte dal pulpito contro il peccato, contro la lussuria, contro la prostituzione, quella se ne infischiava di tutti e di tutto e continuava il suo losco mestiere. Quando una sera quella donna sente bussare all'uscio di casa sua. Oh, sarà uno dei tanti. E s'affretta ad aprire. E si presenta un uomo sui 30 anni. E dice: c'è un posto anche per me questa sera qui in casa tua? Oh, volentieri. E c'è anche un boccone da dividere insieme? Veramente, mi occorre qualche minuto e poi un piatto di minestra ci sarà per tutti e due. E questa si dà da fare, rimbocca le maniche, prepara la cena per lei e per questo tizio, arrivato nella penombra della notte, chissà, uno dei tanti. Poi ambedue si siedono. Lei ha steso sulla tavola una tovaglia bianchissima. Poi ambedue seduti. Guarda, oh, come mai? Come mai? Scusi, scusi, questa tovaglia, ma era di bucato. Come mai? È sporca di sangue. Scusi, scusi. E l'altro, zitto, dice: beh, faccia come crede. E questa, alla svelta, solleva i piatti, i bicchieri, allontana il pane e cambia la tovaglia. Ne mette un'altra, di bucato, bianchissima. E poi riporta i piatti, i bicchieri, e si riprende la cena. Oh, ma dice, cosa succede? Ma ancora sangue! E guarda quest'uomo e vede che dai suoi polsi esce il sangue che macchia la tovaglia. Cioè, ma chi sei tu? Lo guarda bene, si gira le spalle, ma tu sei Gesù Cristo! Sì. Ricordati che mi sei costata sangue. E sparisce lasciando quelle due tovaglie macchiate di sangue. Sparisce. Lui, venuto a dire a quello straccio di donna, a quella miserevole donna, mi sei costata sangue. Smettila. Se passasse Gesù accanto a noi e ci domandasse un boccone di cena, lascerebbe macchie di sangue sulla nostra tovaglia? Ma certo, gli siamo costati sangue, sangue. E quando facciamo la comunione ne abbiamo la prova sacramentale che gli siamo costati sangue. Questo è il calice del mio sangue sparso per voi e per tutti in remissione dei peccati. Gli siamo costati sangue. Pensate quale stima ha Gesù Cristo di noi, di ciascuno di noi, per quanto miserevole sia stata la nostra vita e tristissima la nostra condotta, ancora tanta stima perché gli siamo costati sangue e gola la vita.